se piangi sto peggio di te. E i tuoi problemi, lo sai, sono i miei. Perché se piangi vuol dire che forse non piangi per me. Cucciolo, appoggiati qui sulla mia spalla, che tanto lo so soffri il solletico, e solo così potrò vederti sorridere un po'. Forse è la luna che è in te e che più donna ogni mese ti fa. Forse è l'attesa di quel che non della tua età. Fuori c'è un vento di treni e di gente che sfiora i tuoi segni con l'indifferente volgarità che la vita ha. E tu che avrai giovane zia, che quando chiedi il perché dei perché ti saprà dare in risposta un pezzetto di vita. Sento un po' cucciolo anch'io.